La versione di Oscar, di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24 in questo 25 di marzo del 2015. Qui mi hanno dato una scheda in cui ho scritto settembre 2014, ma va tutto bene, no, vi posso garantire che è marzo del 2015. E innanzitutto voglio ringraziare i tantissimi di voi che hanno mandato messaggi, hanno scritto sms per la puntata di ieri con l'imprenditrice Serenella Antoniazzi, che evidentemente ha colpito molti nel cuore e nel cervello per come ci ha parlato della sua tenacia nel non voler chiudere, nel considerare i suoi dipendenti, nella storia che ha raccontato in cui al centro delle difficoltà di quella impresa con 15 dipendenti nel nord-est c'era una fregatura di un privato, quindi per una volta non solo le banche, non solo lo Stato e così via. Devo dire che l'ondata di reazioni da parte vostra io l'ho girata anche alla Serenella Antoniazzi e spero solo che le arrivi a lei e alla comunità dei suoi dipendenti come un abbraccio da parte di noi tutti, perché il modo con cui ha espresso le sue convinzioni umane evidentemente devono essere arrivate anche a voi, come a noi all'inizio quando abbiamo scelto di fare la puntata, come un segno di valori che nell'Italia di oggi ci sono come, e vanno riconosciuti. E se qualcuno potrà, mi appello soprattutto naturalmente ai imprenditori del nord-est, veda, decida come se dare una mano, perché imprese di quel tipo e valori di quel tipo vanno assolutamente preservati. Le imprese non sono solo conti economici in difficoltà, tasse da pagare, conti da onorare, ma sono in definitiva valori umani per costruire la comunità. E quindi volevo ringraziare voi tutti, perché effettivamente avete avuto una risposta che mi ha molto colpito anche nei toni di molti dei vostri messaggi. Ma andiamo alla puntata di oggi. Ricordo a tutti l'indirizzo versione di Oscar @24.it per intervenire oggi in diretta 800 24 00 24, il telefono e i messaggi sms 349 238 6666. Siamo su un tema che è un classico del mio grandissimo amico Alino Milan, che tutte le mattine, spero voi tutti e molti di più, anche ascoltate qui a Radio 24, perché uno dei suoi tormentoni più riusciti è quello di contare il numero di settimane a cui siamo arrivati della mitica abolizione delle province. E allora, siccome siamo alla, per essere precisi e rispettando il copyright di Alino Milan, siamo alla 99esima settimana, questa è la 99esima settimana dall'annuncio in questa legislatura con Enrico Letta all'inizio della mitica abolizione delle province, che naturalmente sono state toccate, ritoccate come sapete, ma non sono state affatto abolite, sono nelle regioni ordinarie trasformate in enti di secondo grado, non verranno più eletti direttamente dai cittadini, ma ci sono, con competenze diverse, sono rimaste le tasse provinciali che scenderanno nel tempo, negli anni, dagli 8 e rotti miliardi attuali, scenderanno. Nel frattempo il governo gli ha levato con la legge di stabilità un bel po' di soldi, però di fatto ci sono e rappresentano ancora dei signori problemi aperti. E io dico subito che se siete dipendenti delle ex province abolite ma che restano, e quindi avete il problema che riguarda gli esuberi in mobilità che dovrebbero, così era stato annunciato, essere assorbiti dalle regioni, ma in quel caso voi sapete benissimo il problema che rimane aperto, allora telefonate e diteci come la pensate, se siete tra gli esuberi, non siete tra gli esuberi, ma come vivete da dipendenti, funzionari, dirigenti questa 99esima settimana della mitica abolizione, non abolizione delle province. Nel frattempo però c'è chi nell'informazione italiana appunto non si accontenta delle parole d'ordine, ma continua a scrivere dei problemi che sono aperti nelle province abolite, no, non abolite ma trasformate. E il Messaggero, il Messaggero di Roma in questi ultimi giorni è intervenuto per due volte con articoli che appunto davano notizie, quindi su queste notizie tentiamo di darvi qualche informazione più in più dei problemi che restano aperti nelle province abolite non abolite, e per parlarne è con noi appunto del Messaggero un giornalista molto bravo che si chiama Luca Cifoni, che io ringrazio di essere con noi oggi pomeriggio a telefono. Buon pomeriggio, grazie Luca. Ciao Oscar, buon pomeriggio. Allora, cominciamo dalla faccenda dei dipendenti e degli esuberi, della mobilità dei dipendenti delle province, che in realtà era stato annunciato come il primo pezzo della nuova mobilità poi da estendere a tutta la pubblica amministrazione, ma che mi sembra in realtà non sia ancora divenuto a un punto certo per la vita e il prosieguo professionale degli esuberi delle ex province. Come stanno le cose? Le cose stanno che... dopo voi contate giustamente 99 settimane dall'annuncio, poi circa un anno fa, all'inizio di aprile dell'anno scorso, c'è stata la riforma detta del Rio, dal nome dell'allora ministro degli affari regionali, oggi sottosegretario, che ha, diciamo, se ne è occupato, che disponeva appunto la trasformazione in enti di area vasta, eccetera, eccetera. Poi è intervenuta la legge di stabilità, che ha detto: allora, noi tagliamo 1 miliardo subito alle province, 2 miliardi l'anno dopo, 3 miliardi l'anno successivo, e però gli togliamo funzioni e il personale che lo mandiamo in altre amministrazioni dello Stato. E questo diceva la legge di stabilità, che doveva avvenire entro 90 giorni dal 1 gennaio, quindi il 1 aprile. Il 1 aprile, più precisamente, le amministrazioni avrebbero dovuto fare l'elenco delle persone nominativo, dicendo: questo mi serve perché si occupa delle cose che continuiamo a fare qui in provincia, questo non mi serve perché fa un altro lavoro e quindi dovrà andare in un altro ente. Quindi però... praticamente entro dopodomani avrebbero dovuto essere tutte compilate le liste per... Esattamente. E invece? 90 giorni, se non che è successo questo, che il grosso di questo personale dovrebbe andare alle regioni. Parliamo di 20.000 persone su un totale di circa 54.000 dipendenti delle province, perché la legge di stabilità diceva che le dotazioni organiche sono tagliate del 50%, salvo le aree metropolitane, cioè le grandi città, le città metropolitane, dove il taglio è solo del 30%. E quindi il processo prevedeva che si arrivasse a compilare questi elenchi, se non che queste persone devono andare presumibilmente in buona parte a lavorare nelle regioni, ma che succede? Che le regioni non hanno fatto le loro leggi regionali, salvo la Toscana, che è l'unica che l'ha fatta, per dire quali funzioni esattamente si prendono e in che modo. Quindi non essendo stabilito che cosa, quali funzioni si trasferiscono, si spostano dalle province alle regioni, non si spostano neanche le persone e per ora rimangono lì. Questa è la situazione molto riassunta. Quindi molto c'è una sola regione, la Toscana, che ha adempiuto alle cose. Sì. Tutte le altre non stiamo parlando. Peraltro, naturalmente, neanche la Toscana sarà pronta per il 1 aprile, però insomma diciamo che loro in qualche settimana dovrebbero andare a dama, ecco, questo si prevede. Ecco, ma nel frattempo che cosa succede a chi... Cosa succede? Rimangono in carico alle vecchie province senza le risorse? Rimangono in carico alle province, a volte continuando a fare il lavoro che facevano prima, a volte in una situazione più confusa. Però se questo, diciamo, nell'immediato non pone problemi, lo porrà probabilmente nei mesi successivi, perché nel frattempo a maggio sarà applicato il taglio di 1 miliardo previsto dalla legge di stabilità, quindi le province avranno meno soldi. Sarà applicato in termini di cassa, cioè vengono via questi soldi dalle province, e potenzialmente la situazione diventa critica, perché queste persone, c'è qualche caso particolare, a Vibo Valentia mi dicono che non stanno già pagando gli stipendi, però è un caso, ecco, particolare. Poi ci sono 2 o 3 province che hanno problemi di dissesto, ma insomma diciamo che nella grande maggioranza delle province ancora tutto procede sostanzialmente di conserva. Senza parlare poi, i problemi potrebbero arrivare nei prossimi mesi. Senza parlare poi, naturalmente, che per le regioni in cui si vota in primavera, cioè Veneto, Liguria, Marche, Umbria, Campania e Puglia, lì non se ne parla proprio. Le regioni che sono già in campagna elettorale, questa legge probabilmente la faranno, se va bene, in autunno. E quindi anche la definizione di queste liste e poi l'avvio alla mobilità di queste persone è ritardato. Questa storia è terribilmente complicata, ci sarebbero degli altri aspetti da raccontare, perché poi ci sono 8.000 persone di queste che dovrebbero andare ai centri dell'impiego, o meglio all'Agenzia Nazionale per l'Impiego, ma anche qui le regioni e lo Stato centrale stanno un po' bisticciando per chi deve avere questa questa competenza. Anche perché adesso... poi nel frattempo il decreto attuativo del Job Act per la parte che riguarda le politiche attive, cioè appunto la nuova Agenzia Nazionale del Lavoro al posto dei vecchi centri per l'impiego che da regionali erano provinciali, non c'è ancora, quindi l'architrave, esatto, in cui dovrebbero anche, essere assunti non c'è. C'è anche questo aspetto, ti dico anche un'altra piccola chicca, che si diceva ma queste persone mandiamole nelle cancellerie dei tribunali, negli uffici giudiziari dove c'è tanta carenza, che è vero, in larga parte di personale. Ma non si riesce a fare neanche questo, perché è stato fatto un bando di mobilità, in questo caso volontaria, per 1000 posti negli uffici giudiziari, che però procede molto a rilento, sono già riscritto un paio di volte al Ministero della Giustizia, e procede a rilento anche perché le amministrazioni di provenienza non danno in nulla osta. E quindi anche chi vorrebbe andare, per dire, a lavorare in modo utile, magari in una cancelleria, in un ufficio giudiziario, non si riesce ad avviare questa cosa. E poi c'erano qualche migliaio di coloro che fanno parte delle polizie provinciali. Poi c'è il problema della polizia provinciale, che si è intersecato con la riforma della pubblica amministrazione, perché loro dovevano essere, come dire, fusi dentro gli altri corpi di polizia. Se non che questa cosa non si può fare per motivi di, c'è stato un veto della Ragioneria Generale, perché questo avrebbe comportato un aumento delle loro retribuzioni, e quindi anche questa situazione è nel limbo. Oh, ma in realtà lo Stato centrale, oltre a dare la dimensione percentuale del taglio delle dotazioni delle province, poi ha lasciato provincia per provincia la scelta dell'identificazione degli esuberi. Ma in questo caso, che a te risulti, la scelta è avvenuta di plano, coinvolgendo i sindacati? Cioè, come è avvenuta? In maniera omologa e analoga in tutta Italia? I criteri sono stati No, appunto, il problema è che non è ancora avvenuta, ecco. Essenzialmente perché dipende, cioè dovrebbe dipendere in ciascuna provincia da come, esattamente alle competenze che la regione dichiara di assumere, ma senza legge della regione non ci si sposta di un millimetro. No, c'è una scuola di pensiero molto spinta dalla stessa Unione delle Province, anche dall'ANCI, che vorrebbero in qualche modo affrontare questo problema di mandare comunque, di trasferire comunque le persone anche in assenza, diciamo, di questa ripartizione esatta delle funzioni, però per il momento non è una scuola di pensiero, non è operativa. Allora abbiamo immediatamente una telefonata di un funzionario dalla provincia di Modena, vedo dalle quattro parole per presentare la sua telefonata, che si chiama Alberto, e sentiamo come la pensa e come la vive nella sua realtà, Alberto, questa riforma dell'abolizione e non abolizione con tagli degli organici, non tagli degli organici, e un'incertezza terrificante che grava su decine di migliaia di persone. Prego, Alberto. Buona giornata a tutti. Intanto faccio i complimenti al giornalista, perché non è facile trovare qualcuno che è effettivamente informato in quel modo, esatto, sulla dinamica dei centri per l'impiego e comunque in generale delle province. Io volevo fare un ragionamento molto breve sui centri per l'impiego, nel senso che all'interno di questo caos istituzionale che riguarda anche noi, il grosso problema è che in questo momento questa incertezza crea dei problemi proprio rispetto ai servizi che eroghiamo alle persone. Eh già. In un momento particolarmente difficoltoso. Tra l'altro, se mi permette, è una anche delle spiegazioni del flop di Garanzia Giovani. Nel frattempo, perfetto, che avevamo 1,5 miliardi, quasi 2 miliardi di fondi europei, e abbiamo fatto un bando a cui sono iscritti 450.000 giovani in tutta Italia, se solo all'8% di loro, e bisogna dire la verità, in gran parte questo è avvenuto in regione Lombardia e in regione Emilia Romagna, da cui ci chiama lei, solo l'8% però di quei 450.000 hanno avuto proposte concrete, e proprio perché nel frattempo anche i centri di impiego provinciali sono esattamente investiti da questa abolizione e non abolizione delle province. Mi scusi se l'ho interrotto, ma era per aggiungere un dato quantitativo a chi ci ascolta. Assolutamente corretto. Rispetto a Garanzia Giovani, un altro particolare importante, questo dato è corretto rispetto a quanti ragazzi hanno avuto una proposta, ma semplicemente perché Garanzia Giovani si va a inserire dentro a un sistema che è il nostro rispetto ai centri per l'impiego, che è completamente diverso dai sistemi dove è nato Garanzia Giovani, esatto, nel senso che il sistema Garanzia Giovani ha un senso se effettivamente entro 4 mesi, come dice la normativa, dovremo dare una misura a questi ragazzi, ma dal momento che nella maggior parte delle regioni la misura che può essere effettivamente data da noi, cioè non il lavoro, certo, ma la formazione non, sì, esiste, esatto, è chiaro che io non riesco a erogare una misura effettivamente ai ragazzi entro 4 mesi perché non ce l'ho a disposizione. Mm-mm. Non ho la formazione che sarebbe effettivamente qualcosa che io pubblico posso offrire, perché rispetto al lavoro posso provare a intermediarlo, ma non dipende da me che un'azienda poi lo prende in tirocinio, lo assuma. Senta, fatto sta, Alberto, che neanche però la Regione Emilia-Romagna ha adempiuto a, diciamo, l'obbligo normativo di identificare con una propria legge aree competenze, da cui anche piante organiche, per assumere gli extranumerari, diciamo così, i sovrannumerari delle province. E quindi lei come la vive questa situazione? Io l'ho vissuta nel senso che io ho fatto un concorso, uno dei pochi che ci sono, e vado da un'altra parte. Mm. Perché? Non perché non mi trovassi bene qui, ma perché non vedo una prospettiva, non vedo un futuro, cioè non riesco più a capire chi ha in mano la situazione. Quindi va da un'altra parte, nel senso che fa una scelta attiva di mobilità volontaria all'interno della PA o esce dalla PA? No, ho vinto un concorso, ho partecipato a una serie di concorsi, per cui vado da un'altra parte. Rispetto alla mobilità, una cosa importante, come la vivo io? Io ho un timore. Il timore che ho io rispetto ai centri per l'impiego è che le professionalità che servono per aiutare le persone a ricollocarsi sono professionalità molto precise, orientamento, cioè persone che hanno fatto un certo tipo di percorso. Io temo che per poter ricollocare altre persone che vengono da altre aree delle province e che non hanno queste competenze si utilizzino i centri per l'impiego in modo tale che dal punto di vista numerico i centri per l'impiego possano anche essere, come dire, ben forniti di personale. Ma altra cosa è la qualità del servizio che sono in grado di erogare. Esattamente, quindi io temo questo, posto che i centri per l'impiego vengono sempre additati come un posto che non funziona rispetto al lavoro, vorrei dire che 8.500 sono i dipendenti dei centri per l'impiego, in Germania sono circa 102.000, sì, sì, quindi sì, voglio dire, parliamo di niente se non diamo alle persone la possibilità di avere un soggetto pubblico che l'aiuta a ricollocarsi. Infatti per questo, Alberto, direi che siccome è un po' impensabile che con i chiari di luna della finanza pubblica ci siano 100.000 addetti in più nell'Agenzia Nazionale, la mia idea è che l'Agenzia Nazionale dovrebbe soprattutto, ma non credo che avverrà, darsi una vocazione e un compito operativo di gestione e di controllo dei voucher, cioè degli accreditamenti dei soggetti che entreranno a far parte del sistema dell'Agenzia Nazionale, compresi quindi grandi intermediari privati che hanno una percentuale di successo molto più elevata, ed è soprattutto la gestione dei voucher, ripeto, degli accrediti e del controllo dei risultati per fare decadere poi dall'accreditamento, secondo me il compito più credibile da dare all'agenzia. Naturalmente non sarà così e quindi credo che sia il suo timore sia molto fondato. Allora, grazie ad Alberto, adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale, poi torniamo con un'altra telefonata e Luca Cifoni del Messaggero che vi risponde alla 99esima settimana dell'abolizione, non abolizione, delle province. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:50 primi, parlando del problema aperto degli esuberi delle province che diventano enti di area vasta e con elezioni di secondo livello. Una raffica di sms da parte vostra che sottolineano chi, come i politici delle province, si diano da fare molto nei rispettivi partiti per trovare ricollocazioni. E questo è d'accordo, ohimè. Molti critici e scettici su formazione e ricollocazione offerta dagli uffici provinciali per l'impiego. Altre ci scrivono da regioni a statuto speciale, ma lì sapete che siamo extraordine rispetto alla riforma che tocca le regioni a statuto ordinario, perché come sapete il titolo quinto invece non tocca le regioni a statuto speciale, il titolo quinto come riforma programmatica, e quindi l'intervento lo Stato lo fa sulle riforme ordinarie. Sentiamo ancora qualche telefonata da parte vostra. Andrea dalla provincia di Pavia, prego Andrea. Sì, buonasera, io sono consigliere provinciale della provincia di Pavia e anche vice sindaco di Vigevano. Sì. Ma come consigliere della provincia di Pavia volevo far notare un'altra grande stortura di questa pasticciata riforma delle province. Si parlava prima giustamente del taglio dei dipendenti del 50%, c'è un'altra grande ingiustizia territoriale, le faccio un esempio. Il taglio del 50% vale per tutti, La provincia di Perugia, per esempio, per fare un nome a caso, ha 1500 dipendenti ed è molto piccola la provincia di Pavia, che invece ne ha 400. Lei capisce bene che un taglio del 50% su 1500 con una provincia più piccola è un taglio di 200 su una provincia di Pavia che ha 190 comuni, è una realtà territoriale. È un classico esempio di taglio lineare non commisurato a un'analisi delle funzioni residue da svolgere. Questo è un altro veramente punto bruttissimo di questa riforma, ma che conferma un modus operandi che purtroppo viene riproposto spesso in Italia. Sì, direi di sì. In realtà restano i tagli lineari decisi all'ultimo secondo, in barba a tutte le critiche quando si era all'opposizione nei confronti di chi, come Tremonti, li faceva da destra. Emiliano da Foggia, prego Emiliano. Salve Oscar, io ho chiamato perché volevo dire che oltre alla volontà delle province, il governo, che diciamo lo Stato che rappresenta il più grande datore di lavoro in Italia, con questa storia della riforma delle province ha sbloccato le assunzioni di 84.000 persone che hanno superato dei concorsi, cioè 84.000 giovani che ci troviamo senza lavoro per una riforma che incide sulle province, che incidono sulla spesa pubblica solo dell'1%, mentre lo Stato centrale ha un'incidenza del 70% sulla spesa pubblica e lì il governo invece non fa la spending review. No, beh, diciamo che il governo sostiene che negli anni alle spalle l'ha fatta più lui degli enti locali e a quel punto ha adottato la logica la fate voi e la decido io, questo è più o meno per ribadire le cose come stanno. 84.000, quegli 84.000 che ci dici tu erano vincitori di concorso ma non per le province. Diciamo lo Stato ha bloccato le assunzioni questo è noto, ha bloccato le assunzioni, il rinnovo dei contratti e anche gli aumenti di e quindi di adesso stipendi. Noi che abbiamo superato diciamo un concorso, ci sono 84.000 idonei che sono una risorsa per l'amministrazione, perché l'amministrazione ha speso dei soldi per selezionarsi. Questo riguarda un capitolo che sui social si chiama Idonei in lotta, in cui anche sì, sono intervenuto più volte. Io con colleghi della stampa, devo dire quelli della stampa di Torino, in questo caso con numerosi articoli sono più volte intervenuto. In effetti lo Stato fa così, cambia idea e naturalmente bisogna aspettare un governo che pensi anche a voi, come poi è stato obbligato dall'Europa a pensare a quelli della scuola con la riforma della scuola e 100.000 su due volte tanto, diciamo così, dovrebbero entrare in ruolo da settembre. Vedremo. Allora, nel frattempo, Luca, voi avete fatto, Luca Cifoni, avete anche pubblicato un articolo in cui si andava a vedere che come avevano speso in realtà le province nel 2014 i loro bilanci, con qualche chicca, perché io da piemontese quando ho visto che la provincia di Torino aveva speso il doppio di quella di Napoli, mi sono un po' grattato la testa. Sì, sì è vero, la tua Torino ha speso per spese così diciamo istituzionali, quelle della politica, così, per dire, della cassa, insomma, per usare la sintesi brutale, ha speso un 1.500.000 e qualcosa mila. È vero che questi sono dati di cassa perché sono ricavati dal sistema SIAS, quindi ci potrebbe essere, però insomma l'idea è questa. Però ci sono anche delle altre chicche, perché mentre, come ti dicevo, ci sono effettivamente anche delle situazioni di difficoltà, prima citavo il caso di Ubolarenza, ci sono delle province un po' in difficoltà, però la provincia di Monza e Brianza, che è una di quelle diciamo di relativamente recenti istituzioni, il 3 ottobre, quindi a riforma del Rio già operativa, con la vigilia delle elezioni di secondo livello, si è fatta una bella sede nuova, appunto, a modico costo di 24 milioni. Di 24 milioni! Concludiamo con questa cifra al nostro analisi della 99esima settimana dell'abolizione e non abolizione delle province. Grazie a Luca Cifoni, continuate con Radio 24.